Bambine belle, cantate e sorridete, fate felici quelli che incontrate. Tutte le donne sognano, lasciatele sognare, è tanto triste il mondo senza un sorriso di donna. Tutte le donne cantano, lasciatele cantare, ritorna lieto il mondo con le canzoni d'amore. Bambine belle, cantate e sorridete, fate felici quelli che incontrate. Voi che vent'anni e bocca da baci avete, bambine belle, cantate e sorridete, sono per voi le canzoni e le stornellate, e da memoria voi tutte le conoscete. Bambine belle, cantate e sorridete, cielo di maggio in ogni cuore portate. Voi che d'amor parlate, l'amore vivete, bambine belle, cantate e sorridete. Voi che vent'anni e bocca da baci avete, bambine belle, cantate e sorridete, sono per voi le canzoni e le stornellate, e da memoria voi tutte le conoscete. Bambine belle, cantate e sorridete, cielo di maggio in ogni cuore portate. Voi che l'amor parlate, l'amor vivete, bambine belle, cantate e sorridete.